basta che non riprendi, sì. No, okay. No, no, è registrazione dell'audio, basta. Ah, le medie? Stop. No, gli, l'UPT. Ah, l'UPT, ok. Vai. Ma lei è qui di Tione? No, cioè non sono originaria di Tione, però vivo a Tione, sì. E come si sta qua a Tione? Dipende da ciò che ogni persona desidera. E lei come si trova? Tutto sommato abbastanza bene. E secondo lei gli adulti come vedono i giovani? Dipende dagli adulti, non si può generalizzare. E invece il contrario? Sì, sì. E i giovani come vedono? I giovani vivono un periodo di onnipotenza e quindi vedono gli adulti come qualcosa di superato e non qualcosa di superato, qualcosa da non considerare. Come un modello mi piacerebbe che lo fosse, ma purtroppo no. Forse in passato. Finito? Grazie mille. Di niente.